Sì, per Vitellia io lascio anche il nome latino, e tanto puote sull'alma d'un eroe il femminile mercato. Ad ogni costo io voglio svelarle il fuoco mio, potesse almeno dirle il mio amore anch'io. Io vado ed al mio fianco stimo le aggiunge amore, e con dolce speranza alletta questo cuore. Vado tutti a narrar le mie tormenti, contento se potrò ridurla al mondo.